Rieccoci qui a Sulla Linea d'Ombra. Avevo promesso, cosa che poi l'altra volta non ho fatto effettivamente, che all'interno della rubrica avrei inserito delle notizie flash su argomenti che io ho già trattato, ma che comunque vengono alla luce con il passare del tempo, no? Come è giusto che sia. Ho rinvenuto, sempre in merito a questo fatto, un articolo, veramente una notizia flash, su un attore che io adoro tantissimo, cioè mi piace proprio tanto, su Nicolas Cage. In cui si dice che è stata rinvenuta una fotografia che risale a tantissimi anni, e in cui si dice che Nicolas Cage è un vampiro, scusate, non muore mai e torna a circolare fra le persone con nuove vesti e scadenze regolari di circa, a scadenze regolari di circa 80 anni. La notizia viene riportata dal quotidiano New York Daily News e racconta che a spargere la voce è stato Jack Mord, antiquario di Seattle. L'uomo basa la sua convinzione su una fotografia risalente al 1870 che ritrae un uomo molto somigliante all'attore statunitense. Mord ha cercato di vendere la foto su eBay sperando di incassare almeno $1 milione. Non solo la foto è stata venduta, ma la pagina di eBay non è stata venduta, scusate, ma la pagina di eBay è stata rimossa. Tralasciando i vampiri, volendo dare un'altra spiegazione senza porsi alcune limitazioni mentali, si potrebbe pensare che la notevole somiglianza sia dovuta al fatto che in una delle sue vite passate Nicolas Cage sia stato l'uomo della fotografia. Potrebbe essere, si dice infatti, che attraverso le nostre molteplici vite manteniamo sempre determinati tratti del viso e che a volte ci reincarniamo in paesi diversi, mentre altre volte decidiamo di rinascere nello stesso luogo della Terra. Io ho visto la fotografia di Nicolas Cage, quella che voleva vendere l'antiquario e che risale al 1870, e devo dire che è veramente molto, molto, molto somigliante all'attore. Io l'avrei comprata volentieri questa fotografia, avessi avuto tutti quei soldi, perché io adoro veramente tanto quest'attore. E questa era una notizia flash che volevo darvi, questi piccoli flash che ho deciso di inserire all'interno della rubrica. Molto bene, ritorniamo al nostro argomento. Ecco che rinvengo l'articolo, eccolo qui, stiamo parlando di fortuna, lo ripeto. Siamo giunti alla conclusione di che cos'è la fortuna per noi. A me questo articolo piace tanto perché finora ho letto che, come voi tutti avrete sentito, che la fortuna bisogna cercarla dentro di noi. La fortuna non è un qualcosa che accade, ma è uno stato d'animo. Bisogna sentirsi fortunati, dice questa autrice. Chi ha fiducia nella vita, in effetti, può essere visto dall'esterno come particolarmente fortunato, ma questo solo perché non mette barriere, non chiude le porte di fronte a nulla, ed è allora che la vita sembra rispondere con le stesse modalità, premiando, mostrando e permettendo di cogliere quelle opportunità che altri neppure intuiscono. Certo, una parte di queste possibilità sta nel credere nelle proprie intuizioni, nel seguire il proprio futuro, e forse è lì che lei ha il suo regno, non certo in quello della ragione e della logica. Quindi bisogna sentirla dentro. In effetti, possiamo ritenere che sia una vera e propria fortuna non difendersi, non costruire muri nei confronti della vita e del mondo, perché essi sono i veri responsabili della resistenza che finisce per bloccare qualsiasi opportunità, impedendoci di vederla. Quindi, cari amici, iniziamo a sentirci fortunati e la fortuna verrà a noi. Questo era il primo articolo che avevo scaricato per voi. Allora, poi, ecco, abbiamo un altro articolo. Infatti, io guardate, scusate se ogni tanto mi perdo, ma io scarico così tanti articoli che molto spesso mi ritrovo a perderli di vista. Così come un niente. Ne ho scaricato uno sulla dea bendata, appunto, su Tyche, di cui vi dicevo prima. Ci sono tra l'altro delle statue molto belle di questa dea, veramente particolari, viene ritratta in maniera molto molto romantica, devo dire. Tyche, secondo le diverse versioni, veniva considerata una delle oceanine, figlie del titano Oceano e di Teti, oppure una divinità figlia di Hermes ed Afrodite. Tyche o Tyche era la divinità tutelare della fortuna e del destino di ogni città ellenica e venne venerata in modo particolare ad Antiochia e Alessandria. A Tyche le amministrazioni cittadine dedicavano una statua che portava una corona raffigurante le mura della città. Infatti, io sotto gli occhi ho l'immagine di questa corona in cui appunto ricordano moltissimo le mura.